fiore, la notte è sopra. Luce come un ale, tu mi fanno lavare. Dici una dovera, devi care giù in sciara. Tu gine che c'è lunga mesira e per nega. Na na na, baby, se ne tu has. Voglia io te catica il giù tu has. Na me la pace, na me la dal via. Nera, baby, c'è una pera che ti ripas. Alla bugia, alla bugia, vai vai. Ai hai, ai hai, ai hai. Everybody, everybody, everybody.